Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Questo paese è pronto per la regolamentazione dell'eutanasia. Se ci fossero dei parlamentari che vorranno proporlo già in questa legislatura, ho anche l'impressione che la maggioranza non cambierebbe molto, perché quelli che sono contro a tutto. Noi chiediamo delle regole, un'assunzione di responsabilità, e che questa assunzione di responsabilità sia presa e assunta adesso. Avete sentito con quanto slancio, quanta passione Marco Cappato, cara ascoltatrici, cari ascoltatori, esponente dei radicali, nonché dell'associazione Luca Coscioni, è tornato a parlare oggi davanti a Piazza Montecitorio, quindi davanti alla Camera, del dibattito riacceso sul biotestamento, riacceso dal fatto che la vicenda di Jay Fabo, che da lui, da Marco Cappato, è stato accompagnato, come sapete, in Svizzera, perché aveva scelto, dopo essere stato vittima di un incidente che l'aveva reso tetraplegico e cieco, di morire in Svizzera. Marco Cappato lì lo ha accompagnato e ha riacceso appunto il dibattito e chiede alle forze politiche di tornare a riflettere e di legiferare il prima possibile, insomma, su un tema così delicato. Dice anche una cosa molto interessante, poi uno può essere d'accordo o no, e dice che in realtà in Italia la gente per la maggior parte è già a favore dell'eutanasia, quindi oltre il biotestamento. Dice: quelli che sono per l'eutanasia, per il biotestamento, sono gli stessi, tutti gli altri sono in realtà contro, chiede quindi alla politica di agire. Parleremo naturalmente di questo tema così importante e poi ci occuperemo dell'inchiesta Consip, che vede indagato anche il padre dell'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, Tiziano Renzi, che però, vedo un'agenzia di poco fa, dice: sono degli attacchi vergognosi nei miei confronti, chiederò i danni. E ci occuperemo anche della Francia, che a 2 mesi dalle presidenziali vede la destra in serie difficoltà perché il candidato Fillon è stato chiamato dai PM per questo scandalo che riguarda la moglie e i figli, a cui lui avrebbe assegnato degli incarichi fittizi. Insomma, un sacco di temi anche questa sera qui a Effetto Notte. Per i vostri interventi, le vostre osservazioni, c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì per voi giorno e notte, oppure il numero per messaggi e WhatsApp, che è 349-238-6666, 349-238-6666. Tanti temi che però, prima di approfondire, riassumerò nel racconto della giornata. Biotestamento, il testo arriverà alla Camera fra 2 settimane. Marco Cappato, indagato per aiuto al suicidio di DJ Fabo in seguito all'autodenuncia di ieri, è pessimista sulla reale volontà politica. L'inchiesta Consip: per i magistrati c'era un sistema organizzato attorno ad Alfredo Romeo, l'imprenditore arrestato oggi a Napoli per corruzione. Secondo i PM, Tiziano Renzi si faceva promettere soldi, ma lui smentisce recisamente. Brexit: garantire i diritti dei cittadini dell'Unione Europea. Così dice la Camera dei Lord, che sconfessa il governo May. Francia: il candidato della destra alle presidenziali Fillon nei guai per l'inchiesta sugli impieghi fittizi che avrebbe assegnato da premier a moglie e figli, ma lui parla di tentativo di assassinio politico e non si ritira. Pedofilia: un irlandese vittima da bambina di ripetuti abusi da parte di un parroco si è dimessa dalla commissione della Santa Sede, dice la curia non collabora. Aborto: la CGIL denuncia, una donna è stata respinta da 23 ospedali, soluzione trovata solo dopo il nostro interessamento, le motivazioni: ci sono le vacanze e sono tutti obiettori. Borse: forti rialzi per quelle europee e Londra tocca il massimo storico. Calcio: in Coppa Italia la sfida fra Lazio e Roma. Partiamo quindi, come sentivate all'inizio, dal riacceso dibattito politico sul testamento biologico. Dopo il caso di DJ Fabo, la legge sul biotestamento arriverà in aula alla Camera il 13 marzo e non il 6 marzo come si era ipotizzato. Marco Cappato, l'esponente radicale che ha accompagnato DJ Fabo nella clinica svizzera dove è morto e ieri si è autodenunciato ai carabinieri, è indagato per aiuto al suicidio, e sulla reale volontà della politica di approvare il testo lui rimane scettico. Dopo settimane di rinvii, la legge sul testamento biologico approderà alla Camera il 13 marzo per iniziare l'iter di approvazione parlamentare. La decisione della conferenza dei capigruppo di Montecitorio arriva oggi dopo il caso di DJ Fabo, il quarantenne reso cieco e tetraplegico da un incidente stradale e che ha scelto di morire in una clinica svizzera. DJ Fabo è arrivato oltre Alpe accompagnato da Marco Cappato, l'esponente radicale tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, che si batte da anni per l'eutanasia legale. Cappato è ora finito sotto inchiesta militare Milano per aiuto al suicidio, dopo l'autodenuncia di ieri. Sono pronto ad assumermi fino in fondo la responsabilità per avere aiutato Fabo a ottenere l'assistenza medica alla morte volontaria in esilio, dove era possibile. Io spero che siano pronti ora loro in Parlamento ad assumersi la responsabilità di una decisione sul testamento biologico. Purtroppo questo nuovo rinvio rischia di fare saltare questa legge anche per questa legislatura. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Poi torneremo, come dicevo, a parlarne anche per capire che elementi contiene il testo che sta per approdare in Parlamento. Ad approdare invece nell'Aula della Camera nell'ultima settimana di marzo sarà la legge elettorale, questo è quanto ha deciso la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. E passiamo quindi all'inchiesta Consip. L'imprenditore campano Alfredo Romeo è stato arrestato per corruzione nell'inchiesta romana sugli appalti Consip, cioè la centrale di spesa della pubblica amministrazione. Per l'accusa Romeo avrebbe dato 100.000 euro all'ex dirigente della società della Consip, Marco Gasparri, che gli forniva informazioni riservate sui bandi di gara. Indagato a piede libero, Gasparri sta collaborando con gli inquirenti. Nell'inchiesta sono indagati per traffico di influenze anche Tiziano Renzi, padre dell'ex presidente del Consiglio, e l'imprenditore Carlo Russo, che, stando al decreto di perquisizione, si facevano entrambi promettere somme di denaro mensili da Romeo, ma Tiziano Renzi assicura di non aver promesso né chiesto soldi e anzi, come vi dicevo prima, dice che è un attacco vergognoso nei suoi confronti, che chiederà i danni. Poi torneremo e cercheremo di entrare più nel dettaglio di questa inchiesta. Adesso il caso delle tessere regalate in un circolo del PD, in un circolo di Napoli. Nel congresso PD rompe lo scandalo tessere in un circolo di Napoli a Miano. Alcuni si sarebbero iscritti gratis e avrebbe pagato tutto Michel Di Prisco, coinvolto anche nelle primarie del 2011, poi annullate. Così nel video di Repubblica. Però non cacciamo né nulla e ne ci vanno in tasca o partiti. Mentre a Castellammare 100 tessere risultano pagate con la stessa carta di credito. Il presidente del PD Matteo Orfini invia Emanuele Fiano in Campania come osservatore, ma esclude che tra gli iscritti ci siano anche affiliati ai clan. Il nostro statuto prevede anche l'espulsione. Andrea Orlando, però, uno dei candidati alla segreteria, esprime preoccupazione. Temo che questo rischio si manifesti anche in altre realtà, ma mi fido di chi oggi è chiamato a gestire questo passaggio così delicato. Cerchiamo di farlo al meglio. Mentre il Movimento 5 Stelle attacca, per Alessandro Di Battista si è passati dalle iscrizioni gonfiate all'arruolamento dei camorristi affiliati ai clan. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E adesso il lavoro. In una conferenza stampa oggi il ministro Poletti ha detto che nel 2016 gli ispettori del Ministero del Lavoro, INPS e INAIL, hanno controllato oltre 191.000 aziende e riscontrano irregolarità nel 63% delle ispezioni. Poletti ha sottolineato che nel complesso sono stati accertati contributi e premi evasi per oltre 1 miliardo e ha anche annunciato il ministro un giro di vite sull'utilizzo dei voucher. In pratica i buoni lavoro saranno ricondotti all'utilizzo previsto al momento della loro introduzione. Sentiamo Poletti. Ma io credo che fondamentalmente bisogna lavorare in direzione del tornare alla sua origine. I voucher sono nati per i lavoretti, io credo che debbano essere utilizzati fondamentalmente dalle famiglie. Le imprese essenzialmente hanno i contratti di lavoro per regolare le relazioni di lavoro. Parliamo adesso della protesta dei pescatori davanti alla Camera. Ancora scoppi e tafferuglia a Roma, piazza Montecitorio, nel secondo giorno della protesta dei pescatori dell'Associazione Marinerie d'Italia ed Europa. Nonostante i promotori avessero presentato un preavviso per poter manifestare con l'impegno per iscritto di non mettere in atto turbative, questa mattina, informa la questura, hanno di nuovo esploso petardi e tentato di sfondare le barriere di protezione. Già ieri la protesta era degenerata in momenti di tensione, con lancio di petardi, bombe carte e alcuni razzi che hanno provocato il ferimento di 2 manifestanti e il fermo di 2 persone. I pescatori protestano contro le ultime novità contenute nella legge 154 del 2016 per effetto dell'applicazione di regole dell'Unione Europea che inaspriscono in particolare il regime sanzionatorio nella normativa sulla pesca con multe estremamente salate per chi commette infrazioni. Ieri la giornata di protesta si era conclusa con un accordo istituzioni manifestanti che prevede la revisione delle norme sulle sanzioni e la calendarizzazione del progetto di legge sul settore ittico entro maggio. Tuttavia i pescatori non basta e chiedono un ulteriore incontro con il ministro Martina. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo adesso all'economia. Il prodotto interno lordo italiano risale al di sopra dei livelli del 2000 e il dato è anche in linea con le stime europee. In crescita, anche se lenta, l'economia italiana, che non abbandona comunque lo zero virgola. Il prodotto interno lordo del nostro paese ha registrato nel 2016 un aumento di un decimale in più rispetto alle previsioni, e cioè dello 0,9%, appena al di sopra del livello registrato nel 2000. E l'Istat segnala anche una leggera accelerazione rispetto al 2015. Inoltre, evento piuttosto raro, lo 0,9% è superiore alle stime del governo, che nel documento programmatico di bilancio indicava una crescita dello 0,8% dopo lo 0,7 del 2015. Cala inoltre il rapporto deficit-PIL al 2,4%. Soddisfatto il ministro dell'economia Piercarlo Padoan, che prima twitta: per creare occupazione e benessere dobbiamo liberare energie realizzando riforme, e poi al TG1 sottolinea: significa che la crescita continua ad accelerare, che il deficit continua a scendere in modo ordinato, che il debito si stabilizza e che la pressione fiscale scende. Sono tutte buone notizie per gli italiani. Rallentano però i consumi delle famiglie, anche se crescono gli investimenti e la pressione fiscale è scesa al 42,9% del PIL, in calo di 0,4 punti percentuali rispetto all'anno precedente e in controtendenza rispetto al passato. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Un'occhiata adesso alle borse. Forti acquisti su tutti i mercati azionari del vecchio continente. Milano, Parigi e Francoforte hanno chiuso con rialzi di circa il 2%. Londra con un aumento dell'1,64% dell'indice FTSE 100 a 7.382 punti, segna il suo massimo storico. E adesso, sempre a proposito di Londra, la notizia che riguarda il voto della Camera dei Lord a proposito della Brexit: governo sconfitto alla Camera dei Lord su un emendamento che protegge i diritti dei cittadini dell'Unione Europea. Il voto non mette in discussione il progetto di legge che autorizza l'attivazione dell'articolo 50 del Trattato di Lisbona, ma ritarderà l'adozione del testo che consente di lanciare la procedura di divorzio dall'Unione Europea. Quindi opererà un po', provocherà questo ritardo del divorzio dall'Unione Europea. E poi in Francia il candidato della destra alle presidenziali francesi, François Fillon, nei guai per l'inchiesta sugli impieghi fittizi che avrebbe assegnato quando era primo ministro a moglie e due figli. Lui e la moglie sono stati convocati dai giudici per essere ascoltati a metà mese. In conferenza stampa oggi Fillon ha contrattaccato, ha detto: non mi arrendo e non mi ritirerò. Ha attaccato i giudici, ha detto: state assassinando il voto. Il presidente francese Hollande è sceso in campo a difesa dei magistrati. Poi cercheremo di fare un po' il punto sulle elezioni presidenziali francesi a due mesi dal voto, collegandoci direttamente con Parigi. E adesso invece parliamo dell'Unione Europea, del presidente della Commissione Juncker, che ha presentato il libro bianco per proteggere l'Unione Europea dopo la Brexit. Now is our time to be pioneers. Respingo l'idea che l'Europa si riduca a una zona di libero scambio, ma non vi dirò oggi la mia preferenza. Così il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, presentando il libro bianco al Parlamento europeo. 5 gli scenari prospettati per il futuro: o la continuità nella linea attuale, oppure il ripiegamento al mercato unico, l'ipotesi di un'Europa a due o più velocità, o invece un'Europa all'insegna del fare meno e farlo magari meglio, piuttosto che un progetto pienamente federalista. Il tutto, comunque vada, guardando all'ultimo weekend di questo mese di marzo a Roma, quando le celebrazioni dei trattati segneranno, ha detto Juncker, la nascita dell'Unione Europea a 27. Gigi Donelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora il tema della pedofilia, perché Maria Collins, che è un'irlandese vittima da bambina di ripetuti abusi da parte di un parroco, si è dimessa dalla Commissione Internazionale per la Tutela dei Minori istituita da Papa Francesco nel 2014. Le dimissioni sono accompagnate da un'esplicita critica all'opera della Congregazione per la Dottrina della Fede dopo il rifiuto della protezione delle vittime, poiché il 6 febbraio 2016 si era dimesso l'ex abusato Peter Saunders. La Commissione a questo punto non ha più tra i suoi componenti nessun sopravvissuto agli abusi. E siamo alla cronaca. Una donna padovana di 41 anni che voleva abortire si è rivolta a 23 ospedali del nord-est e ogni volta ha ricevuto una risposta negativa. Ogni volta un no per l'obiezione di coscienza, un no per la burocrazia, no perché si avvicinano le vacanze di Natale. Un giro iniziato dall'ospedale di Padova che poi è dovuto ripassare dal via. Dopo 23 no, la donna è infatti tornata nello stesso ospedale da cui era partita, grazie però all'interessamento della CGL. Lei, la donna libera professionista, già madre di due figli, come ha raccontato in un'intervista al Gazzettino. Non voleva un terzo figlio e, nonostante le precauzioni per non rimanere incinta, si è accorta a dicembre di aspettarne un altro e per lei è iniziata un'odissea. E vedevo poco fa che adesso stanno intervenendo i carabinieri dei NAS per capire com'è possibile che sia passata attraverso 23 ospedali e tutti le hanno negato l'applicazione della legge 194. E poi un uomo che è stato condannato oggi dal tribunale di Bergamo a 3 anni e 6 mesi, chiamato il killer dei gatti, un uomo di 43 anni di Trescore Balneario, accusato di maltrattamento e uccisione di animali, in particolare di gatti, appunto per questo ribattezzato killer dei gatti. Il giudice ha stabilito anche che al termine della pena l'uomo resti in libertà vigilata per 2 anni. Il PM aveva chiesto 1 anno e mezzo di reclusione. La sentenza di primo grado arriva al termine di un lungo processo. L'uomo aveva contattato alcune donne che avevano pubblicato su internet l'annuncio di vendita di alcuni gattini. Dopo averli ricevuti, li avrebbe torturati e uccisi, postando poi le fotografie delle torture attraverso WhatsApp. L'uomo era già stato condannato lo scorso dicembre a 2 anni per stalking. Insomma, diciamo, un bel tipo. Per chiudere la partita di Coppa Italia, il derby Lazio-Roma, vedo un'esultanza da parte di Cristian Goldoni. Evidentemente la Lazio ha fatto un gol, ecco, così abbiamo fatto anche coming out per Cristian Goldoni. Lazio gol, assegno Milinkovic-Savic, si chiama così, un nome complesso, tutti i finali ormai i calciatori si chiamano tutti così in Italia, benissimo. Questo significa naturalmente il libero scambio di persone. 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte per i vostri messaggi. Ci risentiamo tra pochissimo, dopo la viabilità cominciamo a approfondire i temi. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Bene, di 60 minuti sono già passati 19 minuti, ma avete sentito come sempre il riassunto della giornata. Adesso Roberta Giordano sempre con voi, comincerò insieme agli ospiti ad approfondire alcuni temi in particolare. Per le vostre osservazioni c'è la pagina Facebook di Effetto Notte oppure il numero per WhatsApp ed SMS che è 349-238-6666. Scrive per esempio Laura: ciao Roberta, sulla vicenda della signora che non trovava un ospedale per abortire, i medici obiettori non dovrebbero poter lavorare in strutture pubbliche visto che non sono in condizione di far rispettare una legge dello Stato. Libertà di coscienza va bene, ma non con gli stipendi pubblici, scrive Laura. Mentre Clotilde va sulla l'inchiesta Consip, dice Roberto, alla luce del caso Consip capisco tutta la fretta dell'abusivo per andare, intende Renzi, per andare al voto, di solito Clotilde lo chiama così, così sarà al sicuro Renzi con l'immunità, poi mi saprà dire se ho ragione. Clotilde, però l'immunità non ha comunque, diciamo, la proprietà transitiva, quindi anche se Renzi, Matteo Renzi ce l'avesse, non è che la può trasferire al padre, ammesso che il padre abbia effettivamente sia indagato, nel senso che vadano avanti le indagini nei suoi confronti, ci sia un qualche rinvio a giudizio. Comunque in ogni caso non avrebbe lui l'immunità. Ne parleremo tra pochissimo. Intanto vi ricordo però, se non avete acceso puntualmente alle 21, quali sono le notizie più importanti della giornata. Inchiesta Consip, arrestato l'imprenditore napoletano Romeo per corruzione. I PM dicono che Tiziano Renzi si faceva promettere soldi da lui. Il ministro del lavoro Poletti dà un giro di vite sui voucher e dice li usino soltanto le famiglie come era previsto all'inizio. Caos tessere nel PD, a Napoli arriva il commissario Orfini e Guerini manda Fiano. Orlando dice ministro della giustizia bisogna vigilare. In Francia guai per il candidato della destra Fillon nella bufera per il Penelope Gate che riguarda la moglie e i figli, dice ma non mi ritirerò. E poi per la Brexit in Gran Bretagna la Camera dei Lord vota contro la May con un emendamento, dicono i Lord che bisogna garantire i diritti ai cittadini europei, il governo è battuto, passa l'emendamento, in realtà questo ritarderà semplicemente il divorzio dall'Unione Europea. E poi biotestamento in aula dal 13 marzo il testo per la legge. Intanto Marco Cappato, esponente dei radicali, è indagato per aver accompagnato DJ Fabo in Svizzera a morire come lui voleva. Vittima della pedofilia si dimette un irlandese che da bambina è stata vittima di un parroco. di violenza sessuale, si dimette dalla commissione della Santa Sede, dice, è in polemica con la congregazione della dottrina della fede perché dice non collaborano. E poi la storia, avete sentito, di questa donna di Padova, 41enne, alla terza gravidanza non desiderata, aveva già due figli, è stata respinta da ben 23 ospedali che non volevano applicare la legge 194, adesso stanno indagando i carabinieri dei NAS. Iniziamo allora per i temi di approfondimento dagli sviluppi dell'indagine Consip. La Consip è la centrale di acquisti e di acquisti della pubblica amministrazione. Oggi è stato arrestato l'imprenditore campano Alfredo Romeo per corruzione nell'inchiesta appunto sugli appalti Consip. L'indagine sugli appalti nasce da un'inchiesta della Procura di Napoli relativa all'attività di questo imprenditore napoletano, appunto Alfredo Romeo, già coinvolto anni fa in una tangentopoli partenopea. L'iniziativa dei magistrati antimafia prende spunto da presunti legami con clan della Camorra di alcuni dipendenti di questa società di Romeo che gestisce il servizio di pulizia all'ospedale Cardarelli, che è la struttura, la maggiore struttura sanitaria del sud Italia. E da un fiume di intercettazioni sia telefoniche che ambientali, insomma, è venuto fuori della corposa documentazione. Non si parla solo di appalti napoletani assegnati alle aziende di Romeo, ma i magistrati parlano proprio dell'esistenza di un sistema Romeo, e in questa inchiesta piuttosto complessa sarebbero indagati anche il padre dell'ex presidente del Consiglio, cioè Tiziano Renzi, e l'imprenditore Carlo Russo, e poi si fa anche il nome di Luca Lotti, ex braccio destro di Renzi, ancora vicinissimo a Renzi, attuale ministro dello sport. Ma ne parliamo per capire qualcosa di più con Sara Monaci del Sole 24 Ore. Buonasera cara Sara. Buonasera. Allora sì, aiutaci a muoverci nei meandri di questa inchiesta. Poi vedevo poco fa le dichiarazioni indignate di Tiziano Renzi che diceva sì, sono degli attacchi vergognosi nei miei confronti, chiederò i danni. Sì. Sì, sì, l'inchiesta, non so se vi ricorderete, è iniziata a dicembre, quando abbiamo parlato prima del sistema, di un inizio di sistema Romeo riguardante la criminalità organizzata avviata dalla Procura di Roma. Poi l'inchiesta è stata trasferita, dalla Procura di Napoli, poi l'inchiesta è stata trasferita a Roma perché c'era stato una rivelazione del segreto d'ufficio che ha visto indagato il ministro allo sport Luca Lotti, oltre ai generali dell'arma dei carabinieri, perché avrebbero avvisato dell'inchiesta su Consip i vertici della stessa Consip, evitando quindi di essere intercettati, quindi facendo delle bonifiche ambientali e togliendo le scimici. Questo è il dossier che ha riguardato in prima battuta Lotti. Poi siamo andati avanti, intercettando Alfredo Romeo sono emersi i rapporti con Russo, Carlo Russo, un piccolo imprenditore del settore farmaceutico di Scandicci, che è un amico di famiglia storico della famiglia Renzi, in particolare di Tiziano Renzi. In queste prime intercettazioni, quindi in una prima fase, l'inchiesta proprio verteva su questo tentativo tramite Russo di agganciare il padre di Renzi per avere qualche facilitazione delle informazioni, comunque di essere introdotto nelle gare e nel giro di affari delle grandi commesse dello Stato, in particolare della Consip, che ricordo che è l'ente che si occupa di gare per le forniture della pubblica amministrazione. Ecco, adesso i nuovi sviluppi avrebbero individuato anche delle responsabilità a carico di Tiziano Renzi, il padre di Matteo Renzi, perché si parla di questo reato introdotto da pochi anni nel codice penale, che è il traffico illecito di influenze. Non è corruzione, perché non viene pagato un pubblico ufficiale per vincere un appalto, ma colui che ha il reato che viene accusato di traffico illecito di influenza è colui che, sfruttando delle relazioni, parlando di una relazione esistente con una persona importante, cerca di avere vantaggi per sé o per qualcun altro. Possiamo quindi, dire secondo... che è un passaggio indietro rispetto alla corruzione. Quindi secondo i PM, Sara, per semplificare, sarebbe stato sì, Tiziano Renzi una specie di tramite tra... Una sorta di tramite non meglio definito, insieme al Russo, perché sì, lo ricordo, mentre Romeo è stato accusato di corruzione, ovvero di aver proprio truccato pagando un funzionario di Consip, Gasparri, anch'esso accusato di corruzione, e Russo e Renzi, Tiziano, non avrebbero pagato, almeno non c'è evidenza in questo momento, un pubblico ufficiale, un funzionario di Consip o qualcuno, diciamo, dentro un ufficio pubblico, ma avrebbero incassato remunerazioni, di questo si parla, la promessa di remunerazioni, questo almeno si legge nel decreto di perquisizione di Russo, per ottenere qualche cosa non meglio di definito, perché poi in effetti Romeo e Russo in particolare sembrerebbe non siano stati in grado di arrivare a quel tipo di commessa, a una commessa specifica che in realtà fu vinta da un altro soggetto. Quindi c'è un tentativo non riuscito. Il ruolo di Renzi e di Russo sono degli intermediari che però, all'evidenza che abbiamo in questo momento, non riuscirono a contattare, o non lo fecero per qualche ragione, i vertici di Consip. Questo è chiaramente quello che sappiamo ad oggi, perché poi sappiamo che l'inchiesta si snocciola spesso anche per noi giornalisti per fasi, diciamo, progressive. Quello che oggi sappiamo è che probabilmente Renzi abbia un contatto con Romeo, e questo è quello che dice i PM. Ovviamente la difesa sostiene che lui non ha avuto nessun favore, non ha avuto nessuna remunerazione, e che troverà la sua innocenza. Lo ricordi, i reati però contestati sono molto diversi. Romeo, corruzione, qui parliamo di traffico di influenze, come dicevi. Per chiudere, Sara Monaci, invece il nome di Luca Lotti, sentiamo anche, tra l'altro lui ha detto io sono tranquillissimo, sentiamolo, poi ci spieghi che ruolo avrebbe. Buongiorno. Marroni, l'accusa di essere stato lei. Salve a tutti, signori. Arrivederci. Lei è tranquillo, ministro. Arrivederci, tranquillissimo. Arrivederci, grazie. Ecco, per chiudere, ci spieghi perché si fa il suo nome? Si fa il suo nome nella prima parte dell'inchiesta perché sostanzialmente Luca Lotti, dicono gli inquirenti, avrebbe rivelato ai vertici Consip, in particolare a Luigi Marroni, amministratore delegato, suo amico, l'esistenza di un'inchiesta, per cui doveva stare attento a non rivolgersi di più ai Romeo. Questo di fatto, secondo gli inquirenti, ha inquinato il campo probatorio, perché i vertici Consip si sarebbero poi affrettati a ripulire gli uffici da cimici intercettati, la possibilità di essere quindi intercettati dagli stessi inquirenti. Come si difendono però i vertici di Consip? Che le ripuliture, diciamo, delle cimici e i controlli negli uffici vengono fatti ogni qualche mese, perché gli uffici pubblici possono essere soggetti a oggetto di spionaggio proprio malevolo. Esatto, quindi a prescindere dalle inchieste. Ovviamente questo è un dossier a latere, non è direttamente legato all'inchiesta, si parla infatti di rivelazione di segreto d'ufficio, lo ricordo. È una cosa diversa anche questa. Diversa, che sarebbe stato commesso anche dall'arma dei carabinieri. Voglio sottolineare che questa inchiesta è soprattutto importante perché potrebbe avere dei risvolti politici inattesi, inediti, soltanto fino a qualche giorno fa. Al momento mi sembrano le conseguenze forse più incalzanti. Vedremo gli sviluppi giudiziari, ma evidentemente stiamo parlando di un ex premier che si sta candidando anche ad una corsa per le primarie. Certo. Quindi capiremo che incidenza può avere anche su questo. Esatto. Grazie Sara Monaci, buon lavoro Sara. Ciao. Adesso invece torniamo sul dibattito sul fine vita, che è stato riacceso in modo particolare, appunto, come dicevamo, dalla vicenda dolorosa di DJ Fabo, il quarantenne vittima che un incidente stradale aveva reso tetraplegico e cieco, che insomma dopo tanta sofferenza aveva chiesto di poter morire, di poter essere aiutato qui in Italia, però è dovuto andare come altri cittadini italiani in Svizzera, e lì lo ha accompagnato Marco Cappato, esponente dei radicali e dell'associazione Luca Coscioni, che si batte da anni per legalizzare l'eutanasia, che si è autodenunciato e adesso è indagato. La notizia di oggi è che la proposta di legge sul testamento biologico sarà nell'aula della Camera dal 13 marzo, doveva essere dal 6 marzo, adesso invece dal 13 marzo. Cappato però ha detto, insomma, che questo è il solito rinvio, quindi piuttosto scettico sulla reale volontà politica di regolamentare questo tema così delicato. Sentiamolo in questo passaggio oggi in conferenza stampa davanti a Montecitorio. Ci arriva la notizia, ringrazio Riccardo, biotestamento, la legge approderà in aula il 13 marzo. Ieri mi avevano detto che era già deciso che sarebbe approdata il 6 marzo e quindi significa che in 24 ore si è presa già una settimana in più di ritardo. Naturalmente in queste condizioni di scarsa dimostrazione di volontà politica tutte queste scadenze sono scritte sulla sabbia, perché siamo al quarto rinvio della discussione della legge sul testamento biologico. E su questo coinvolgo Donata Lenzi, che è deputata PD e relatrice del disegno di legge sul testamento biologico. Buonasera Lenzi. Buonasera. Senta, innanzitutto c'è l'eventualità che faccia ancora dei salti in avanti, cioè ulteriori rinvii come teme Cappato, oppure no il testo? No, il 13 dovrebbe andare, quindi non c'era in realtà nessuna data fissata al 6. Il calendario di marzo viene fissato il primo di marzo è oggi, quindi hanno fissato quella data lì perché prima c'è il decreto sicurezza. Onorevole Lenzi, ieri Gentiloni si è detto molto vicino al dolore di DJ Fabo della sua famiglia e dei suoi cari e di chi vive insomma una situazione come questa, però ha detto noi questa proposta di legge che farà il suo iter parlamentare non parliamo di eutanasia. Ci spiega esattamente in modo semplice che cosa contiene questo testo che approderà alla Camera il 13 marzo? Allora, il testo contiene una norma sul consenso informato, che è quello previsto dalla nostra Costituzione, ma non è mai stato regolamentato, e che permette a ciascuno di noi di dire di sì al trattamento sanitario che viene proposto, di dire di no, ma di dire anche adesso basta, non ne posso più, staccate la spina. In realtà una parte di queste cose sono già praticate dalla giurisprudenza. Però è una cosa completamente diversa doversi sempre rivolgere a un magistrato o invece chiarire in maniera chiara che la volontà del paziente è quella che alla fine deve prevalere. Poi prevede per la possibilità, per chi lo desidera, non è un obbligo, è una possibilità, di scrivere una propria dichiarazione anticipata di trattamento, cioè il proprio testamento biologico, in cui dire queste terapie non le voglio fare magari perché non mi fido della medicina ufficiale, oppure tentate tutto il possibile se mi ammalo, oppure non abbandonatemi in un ospedale, voglio morire a casa mia, cioè quella serie di indicazioni che esprimono la nostra identità, il nostro modo di vedere le cose quando si è gravemente malati. Individuare un fiduciario che ci rappresenterà nel momento in cui le evenienze peggiori, il perdere la capacità di intendere di volere stare male, si realizzassero. Questi sono i due punti principali della legge. Senta, onorevole Lenzi, mi faccio sentire un altro passaggio di Marco Cappato a proposito del fatto che lui dice il nostro paese in realtà è pronto per la legalizzazione dell'eutanasia perché la maggioranza è disponibile, la stessa maggioranza che sarebbe disponibile a approvare l'eutanasia è la stessa che sarebbe a favore del testamento biologico. Dice quelli che sono contro in ogni caso, sia al testamento biologico che all'eutanasia. Sentiamo questo passaggio. Questo paese è pronto per la regolamentazione dell'eutanasia. Se ci fossero dei parlamentari che vorranno proporlo già in questa legislatura, ho anche l'impressione che la maggioranza non cambierebbe molto, perché quelli che sono contro a tutto. Noi chiediamo delle regole, un'assunzione di responsabilità e che questa assunzione di responsabilità sia presa e assunta adesso. Come commenta Donata Lenzi? Non ho nessuna base per valutare l'esattezza di questa informazione, a me anzi risulta diverso. Cioè è vero che chi è contrario a tutto, ma il lavoro che abbiamo fatto nell'ultimo anno di costruzione sul consenso, su questa proposta che va in aula, è stata fatta mettendo insieme persone del PD, ma non solo del PD, che erano favorevoli o che erano contrari all'eutanasia. Quindi direi che questa legge è un punto di equilibrio, di mediazione tra modi di vedere le cose anche abbastanza diversi. Senta, onorevole Lenzi, mi dica una cosa. Nel caso, per esempio, di DJ Fabo, se fosse già stato approvato questa legge sul testamento biologico, che cosa avrebbe potuto fare, che cosa si sarebbe potuto ottenere? Allora, il caso di DJ Fabo, se l'ho capito bene, perché non ho letto cartelle cliniche o cose del genere, è il caso di una persona con disabilità e non con una patologia in atto. In questo caso quello che avrebbe potuto fare era chiedere l'intervento delle cure ed eventualmente la sedazione per non soffrire, ma sicuramente è una cosa molto diversa che avere un'iniezione letale, o in questo caso bere una soluzione letale che ti fa morire nell'arco di 20 minuti. Mentre invece il caso che è stato presentato oggi del signore malato di tumore è più vicino all'impostazione che facciamo noi, perché lì c'è una terapia che viene effettuata nei confronti di una persona che è malata di una patologia che lo porta alla morte in tempo relativamente breve, e in questo caso l'interruzione delle cure, l'avvio delle cure palliative è invece proprio espressamente previsto. Per chiudere, onorevole Lenzi, le leggo qualcuno dei tanti messaggi che stanno arrivando tra la pagina Facebook di Effetto Notte, il 349-238-6666. Per esempio Doris da Trieste scrive: Chiesa e Stato vogliono dominare su scelte fondamentali come sessualità, maternità, fine della vita, scelte che competono solo all'individuo che è sovrano e autonomo, ed è proprio questa autonomia che i poteri statuali e religiosi non sopportano, sono infatti pilastri della loro prevaricazione. Poi dice un altro ascoltatore: Eutanatos, buona morte, morire bene, dice, mi chiede e vi chiedo, siamo padroni della nostra esistenza? Un altro ascoltatore chiede: se accompagno qualcuno in un paese dove il suicidio assistito è illecito, sono colpevole? Qual è il capo d'accusa? Sono vari messaggi, poi mi dirà lei a quale vuole rispondere. Simone dice: credo che ci sia bisogno di una buona legge per fine vita, dignitoso e assistito per tutti. Parlare di suicidio assistito non aiuta, si tratta di accompagnare persone in fin di vita verso l'altra sponda senza soffrire troppo e senza inutili accanimenti. Per gli altri casi deve comunque prevalere il giudizio medico. Una persona è aiutabile o salvabile anche se lei pensa di no? Ecco, quale vuole rispondere per chiudere? Guardi, vorrei farle un'osservazione di carattere più generale che riguarda in parte anche l'eutanasia. Nel nostro paese vige un principio di solidarietà, e il principio di solidarietà ha dato origine al Servizio Sanitario Nazionale. Quindi dobbiamo ricordarci che le nostre scelte sono le scelte individuali che riguardano la nostra vita, la nostra salute. Io le difendo e lo faccio con questa legge, ma pretendere che sia Servizio Sanitario Nazionale a mettere fine alla vita è molto rischioso, perché vorrebbe dire che ragionamenti, diciamo così, pieghiamo una cosa che è nata per la salute a uno scopo completamente diverso. Non siamo del tutto da soli, siamo insieme, e siamo insieme all'interno della gestione della sanità. È vero che questa solidarietà, con le difficoltà che ha la sanità nell'ultimo periodo di tempo, si vede molto meno. La scelta condizionata dalla solitudine o la mancanza delle cure non è una scelta libera. Grazie Donata Lenzi, e speriamo insomma che l'iter sia il più veloce possibile. Grazie, adesso dobbiamo prenderci subito questa pausa. Voi potete continuare sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666. Hai tra i 18 e i 35 anni? Raccontaci la tua Europa e viaggia fino a Strasburgo. Con Radio 24 e l'Ufficio di Informazione del Parlamento Europeo a Milano puoi aggiudicarti un viaggio studio all'Europarlamento. Dal 4 marzo al 13 maggio ascolta giovani talenti e scopri la parola chiave settimanale con cui partecipare. Inviaci il tuo racconto sull'Europa che hai vissuto o che vivrai per studio, stage o lavoro. I migliori partiranno per Strasburgo. Sono Sergio Nava, vi aspetto ogni sabato alle 13.30 con Giovani Talenti. Tutte le info su radio24.it. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice con voi, Roberta Giordano. Ora passeremo ad altri temi, dopo quello delicatissimo di cui abbiamo parlato, del testamento biologico che approderà il progetto di legge alla Camera il 13 marzo, e speriamo insomma che cominci il suo iter, visto che molti ascoltatori anche dicono ci vuole almeno una cornice di legge su, che possa regolamentare, insomma, una questione così delicata, dibattuta, che ci mette troppo spesso di fronte a delle situazioni dolorose che non si sa bene come risolvere, no? A proposito anche di DJ Fabo. Adesso parleremo invece dei guai per la destra francese. E intanto però vi ricordo, se avete acceso puntualmente le 21, quali sono le altre notizie importanti della giornata. Biotestamento, il testo arriverà alla Camera fra 2 settimane. Marco Cappato, indagato per aiuto al suicidio di DJ Fabo in seguito all'autodenuncia di ieri, è pessimista sulla reale volontà politica. L'inchiesta Consip, per i magistrati c'era un sistema organizzato attorno ad Alfredo Romeo, l'imprenditore arrestato oggi a Napoli per corruzione. Secondo i PM Tiziano Renzi si faceva promettere soldi, ma lui smentisce e dice che chiederà i danni. Brexit, governo sconfitto alla Camera dei Lord su un emendamento che protegge i diritti dei cittadini dell'Unione Europea. Il voto non mette in discussione il progetto di legge per la Brexit, ma ritarderà l'adozione del testo. E poi Francia, il candidato della destra alle presidenziali Fillon nei guai per l'inchiesta sugli impieghi fittizi che avrebbe assegnato da premier a figlia e moglie, ne parleremo tra pochissimo. Pedofilia, un irlandese vittima da bambina di ripetuti abusi da un parroco, si è dimessa dalla commissione della Santa Sede perché dice la curia non collabora. Aborto, la CGIL denuncia, una donna è stata respinta da 23 ospedali del nord-est, la soluzione l'abbiamo trovata solo dopo il nostro interessamento, le motivazioni ci sono le vacanze e sono tutti obiettori. E per il calcio, in Coppa Italia, la sfida tra Lazio e Roma, per il momento conduce la Lazio 1-0. Occupiamoci quindi di Francia, delle elezioni presidenziali. Mancano praticamente 2 mesi, il candidato della destra alle presidenziali francesi François Fillon nei guai per l'inchiesta sugli impieghi fittizi che avrebbe assegnato alla moglie quando lui era primo ministro e figli, il cosiddetto Penelope Gate. Lui e la moglie sono stati convocati dai giudici per essere ascoltati a metà mese. In conferenza stampa oggi Fillon ha contrattaccato, ha detto: io non mi arrendo, non mi ritiro, attacca i giudici, stanno assassinando il voto. Sentiamo un passaggio della sua conferenza stampa di oggi. De mes amis politiques et de ceux qui m'ont soutenu à la primaire et ces 4 millions d'électeurs parlent d'un assassinat politique. C'est un assassinat en effet, mais par ce déchaînement disproportionné, sans précédent connu, par le choix de ce calendrier, ça n'est pas moi seulement qu'on assassine. C'est l'élection présidentielle. Dice: non è solo a me che non è l'assassino nei miei confronti, ma anche proprio delle elezioni presidenziali. È così, caro Marco Mussanè, corrispondente del Sole 24 Ore dalla Francia? No, non credo. Mi sembrano dichiarazioni che ci ricordano molto quelle di Berlusconi a suo tempo, la giustizia orologeria, la giustizia a senso unico. Il vero problema di Fillon è che è il nemico di se stesso, è lui, ha combinato tutti i disastri possibili e immaginabili. L'unica cosa decente che poteva fare per rispettare i 4 milioni di elettori che hanno votato alle primarie era quello di ritirarsi il giorno dopo le rivelazioni sulla scandalosa vicenda degli impieghi fittizi alla moglie e ai figli. Senti, e quindi però mi pare che lui appunto sembrava stamattina si dovesse ritirare, invece ha detto no, non mi ritiro affatto, ma i centristi lo hanno abbandonato invece, non gli danno più il loro sostegno, cos'è successo? Beh, la vicenda dei centristi è un po' più complicata di così, so che i centristi francesi sono, pur essendo pochi, sono divisi in 2 partiti, uno un pochino più consistente, si chiama Modem, ed è quello che appoggia il candidato, diciamo, indipendente Emmanuel Macron, l'altro più piccolo si chiama UDI, è quello che era alleato di Fillon e che ha deciso per il momento di sospendere la campagna dopo le dichiarazioni di fuoco fatte da Fillon oggi contro la magistratura, che sarebbe appunto colpevole di voler colpire la sua campagna, di volerlo affondare e di voler in realtà, come dire, indebolire la democrazia nel paese. In effetti sì, questa mattina si erano diffuse le voci di un suo possibile ritiro dopo che è arrivata la convocazione per metà marzo dai magistrati della Procura Finanziaria, che in quella sede gli comunicheranno l'iscrizione nel registro degli indagati. Va ricordato che Fillon ha fatto della propria integrità morale, diciamo, lo slogan delle primarie su questo, in particolare ha vinto. Prima di questa vicenda aveva pubblicamente più volte dichiarato che in caso di avviso di garanzia si sarebbe ritirato, promessa che in realtà si è rimangiato. Il problema vero della destra, che si trova oggettivamente in una situazione drammatica dopo aver avuto, come dire, la vittoria a portata di mano, Il problema è che è un problema di tempi, nel senso che al deposito delle candidature mancano 15 giorni, ormai non c'è francamente, sembra, più il tempo tecnico neanche per un piano B, e cioè per un cambio di cavallo in corsa. Quindi sono costretti a tenersi fion, seppure si stiano moltiplicando gli abbandoni da parte di molti dei sostenitori. Oggi, dopo appunto le dichiarazioni di fuoco contro la giustizia, abbiamo contato almeno una ventina di prese di posizione di deputati e senatori della destra che hanno pubblicamente annunciato che non sosterranno Fillon alle presidenziali, quindi la situazione è veramente molto drammatica. Ci sentiremo allora nei prossimi giorni, caro Marco Mussanè, per capire come proseguirà la vicenda di Fillon e quali rimarranno i contendenti in campo. Grazie Marco Mussanè, dalla Francia, ciao. Ora direi sì, che bisogna aggiornare chi sta viaggiando. Faircam Transport, il vostro partner per trasporti a carico completo o parziale. Faircam.com vi presenta... Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E ve le ricordo in pochi secondi le notizie più importanti. Il testamento di cui abbiamo parlato, il testo arriverà alla Camera fra 2 settimane. Marco Cappato, indagato per aiuto al suicidio di DJ Fabo in seguito all'autodenuncia di ieri, è pessimista sulla reale volontà politica. L'inchiesta Consip, per i magistrati c'era un sistema organizzato attorno ad Alfredo Romeo, l'imprenditore arrestato oggi a Napoli per corruzione. Secondo i PM, Tiziano Renzi si faceva promettere soldi, ma lui smentisce recisamente. Brexit, governo sconfitto alla Camera dei Lord su un emendamento che protegge i diritti dei cittadini europei, ma il voto non mette in discussione il divorzio dall'Unione Europea, semplicemente lo ritarda. Francia, ne abbiamo appena parlato, il candidato della destra alle presidenziali Fillon nei guai per l'inchiesta sugli impieghi fittizi che avrebbe assegnato da premier a moglie e figli, ma lui parla di tentativo di assassinio politico e non si ritira. Aborto, la CGIL denuncia, una donna è stata respinta da 23 ospedali nel nord-est e la soluzione è stata trovata solo dopo il nostro interessamento. E poi per il calcio, in Coppa Italia, Lazio-Roma. La Lazio conduce per 1-0, gol del centrocampista laziale Milankovic Savic, una scivolata su assist da sinistra di Felipe Anderson. Una vera radiocronaca. Adesso spazio europeo. Europa 24 notte. Un pass Interrail a tutti i neo-diciottenni dell'Unione Europea. Era ed è questa la proposta presentata lo scorso ottobre dal capogruppo del Partito Popolare Manfred Weber. Il costo di una simile iniziativa però pare al momento troppo proibitiva. Problemi di budget dunque, ma il progetto non è stato abbandonato. Adriano Palazzolo ha fatto il punto sull'iniziativa con Massimiliano Salini, eurodeputato e membro della Commissione Trasporti e Turismo del Parlamento Europeo. C'è una problematica evidentemente legata all'entità dell'impegno economico che ha spaventato un po' tutti, soprattutto in Commissione Bilancio, perché mediamente il costo di un viaggio sull'Interrail si aggira tra i 200-250 euro e i 450-500 euro. Diciamo che la forchetta di valore del ticket è questo, e quindi considerato il numero di diciottenni, comunque di potenziali aventi diritto in Europa come cittadini o comunque come legalmente residenti, la cifra potrebbe arrivare quasi a 3 miliardi di euro, per cui da un minimo di 1,5 miliardi fino a un massimo di 2,8-2,9 miliardi. Quindi è un progetto che è stato del tutto accantonato o è stato solo messo in stand-by? No, non è stato assolutamente accantonato, si sta cercando di capire come realizzarlo. Gli sponsor dal punto di vista politico sono molti, la commissaria Bulls, interrogata a riguardo, ha risposto positivamente, ma ha segnalato anche tutta la necessità di ridimensionare l'impatto finanziario dell'operazione, perché al momento sono cifre che oggi non si è in grado di mettere a disposizione su una singola partita come questa, anche perché peraltro sulle politiche giovanili le risorse messe a disposizione sono già comunque particolarmente ingenti, per cui si sta valutando la modalità con cui attuarlo e quindi con cui ridimensionare l'impatto economico. Non è stato assolutamente accantonato, è semplicemente in una fase di revisione. Le ultime notizie ci parlano anche di un progetto che probabilmente verrà forse presentato i primi di marzo, che riguarda comunque sempre dare la possibilità ai giovani di viaggiare. Sì, la possibilità possibilità di viaggiare rimane un punto fermo nell'approccio che l'Unione Europea intende avere sulle politiche giovanili. La conoscenza delle culture che attraversano l'Unione Europea è considerata uno degli antidoti più efficaci contro alcune derive populistiche che oggi sembrano essere diventate imperanti nel dibattito politico. La mancanza di conoscenza è l'alimento di queste derive. La conoscenza e l'apertura di orizzonte invece è correttamente considerata un antidoto efficace, che il tema della conoscenza attraverso il viaggio è un punto focale sul quale vale la pena concentrarsi, perché i giovani sappiano di che cosa si parla quando si parla di Europa. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. E poco prima di lasciarci, giusto il tempo per ancora altri vostri messaggi tra i tanti, tra pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio, e al 349-238-6666. Ancora sul fine vita, dice questo ascoltatore, Pietro da Ascoli Piceno: la sofferenza fa parte della vita come la morte, la dignità non sta nel fuggire la sofferenza anticipando la morte per finire di soffrire, ma nel superarla, nel affrontarla aiutato da chi ci sta e da chi sta vicino. Poi dice invece Cristiano: che senso ha essere senza esserci? E poi un altro messaggio, per esempio quello di Gaetano, dice: ora di dare una cornice legislativa a tutto l'argomento del fine vita, certo che sono temi molto divisivi, e allora la politica faccia finalmente un passo avanti, e ce lo auguriamo naturalmente. Ci fermiamo qui, mentre vi ricordo che Lazio-Roma prosegue 1-0 per la Lazio. Ci riaggiorniamo brevemente alle 22.